L'attesa di una persona regala sempre un senso di vertigine. È come una di quelle giornate che le previsioni del tempo segnano con il sole, con la nuvoletta e con la pioggia. Tu sai che per un po' pioverà, che per un po' ci sarà il sole e anche un po' di pioggia, ma non sai mai in quale ordine aspettartelo. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Wow, prestissimo oggi, sono le 16.05, questa però è sempre Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. La prima volta che ho aspettato il ritorno di qualcuno avevo circa 8 anni. Aspettavo mio nonno. Era in ospedale da più di un mese, per via di un infarto. Era il secondo questo. Il primo gli era venuto proprio in un ospedale, mentre era lì a fare visita ad un amico. Lo presero per i capelli, disse lui, e lo riportarono qui. La seconda volta invece era a casa sua, e l'ambulanza arrivò giusto in tempo. All'epoca io e mia sorella eravamo troppo piccini per andare in un centro per cardiopatici sopra Lago Maggiore, e quindi i miei genitori decisero che avremmo rivisto il nonno al suo ritorno a casa. Mi ricordo quell'attesa. Io mi ero preparato in modo da farmi trovare pronto. Mi ero vestito bene e avevo imparato una piccola poesia che sapevo gli piaceva. Era primavera, anche se non saprei dire quale mese. L'aria era ancora fredda. Io però avevo già imparato a riconoscere l'ultimo freddo, quello che arriva prima della stagione più bella che c'è. Ero sul balcone quando la macchina di mio papà spuntò dalla piazza e si fermò sotto casa nostra. Mio nonno quando scese non era in gran forma, però era tornato ed io ero lì ad aspettarlo. In quel mese erano successe le milioni di cose che succedono ad un bambino di 7 anni in un mese e io ero pronto a raccontargliele tutte. Fu l'attesa più intensa della mia vita, forse perché era la prima, forse perché non c'ero abituato e non sapevo come gestirla, forse perché scoprivo che aspettare il ritorno di qualcuno può essere la gioia più straziante che ci sia. Da allora poi ho aspettato centinaia, forse migliaia di volte, come succede a tutti, di aspettare un amico che torna a scuola, un marito che torna a casa, un padre che rientra dopo il lavoro o una fidanzata che torna da una vacanza. Ho aspettato per un sacco che i miei genitori venissero in montagna a prendere me e mia sorella per portarci al mare. Ho aspettato che il mio amico passasse a prendermi per partire per la prima volta in vacanza. Ho aspettato che quella ragazza venisse all'appuntamento. E piano piano con il tempo ho imparato che l'attesa è tutto. Che tutto sarebbe niente senza l'attesa. Che la gioia di incontrare qualcuno sta tutta e solo lì, in quelle ore che ci separano dalla persona che desideriamo. E in quello sforzo, lo sforzo che compiamo per ricordarla e per cercare di immaginare come sarà dopo tutto quel tempo trascorso senza vederla. Ecco, quello sforzo ci fa immaginare che possiamo essere noi, chi possiamo essere noi, quando non ci limitiamo a pensare solo a ciò che siamo. Buongiorno a tutti, sono le 16.08 minuti, questa è Radio 24 e oggi si parla di attesa. Oggi è uno di quei giorni in cui ho capito che cosa vuol dire riassaporare, proprio l'attesa di una persona che ritorna, di una persona che è stata via, che è stata lontana, o magari no, che è vicina, ma che si sta aspettando. 800 24 0024 349 238 6666, l'anno è nuovo, ma i numeri sono sempre quelli. Ecco, io vi faccio una raccomandazione, se siete degli ascoltatori assidui, ma anche no, tanto spazio nel cellulare ce n'è, anche se ascoltate ogni tanto, segnatevi questo numero 800 24 0024, che è quello del numero verde per chiamare, così ogni volta che avete voglia di parlare con me o con chiunque parli qui a Radio 24, basta che cerchiate telefono Radio 24 e potete chiamare subito, oppure andate sul profilo Facebook del programma, che è un profilo nuovo e si chiama Matteo Caccia, io sono qui. Non cambia niente rispetto all'altro, però per chi frequenta Facebook, semplicemente l'altro non potevo più usarlo come era giusto andasse usato, e quindi ce n'è uno nuovo, si chiama Matteo Caccia, io sono qui. Cliccate su mi piace e ci trovate tutto quello che racconto e anche di più, i video delle canzoni che mandiamo. A proposito, visto che ci siamo e parliamo, ne abbiamo qualche minuto in più oggi, le canzoni che noi mandiamo sono tutti i giorni scritte sulla pagina del profilo del sito di Radio 24, che è radio24.it, alla pagina Io sono qui. Visto che molti mi chiedono ma che titolo ha quella canzone che hai messo, ma qual è il secondo brano, andate lì e trovate tutto. Sul profilo Facebook invece trovate anche i video dei brani e spesso trovate anche le cose che racconto e che dico, le pubblico su quel profilo lì, Matteo Caccia Io sono qui. Hanno fatto così Kevin, Luisa, Susanna, che mi scrivono che cosa stanno aspettando. Kevin. L'attesa è il momento in cui si provano, come le sceneggiature di un film, i dialoghi che si sperano di avere al momento dell'incontro e che non si avranno mai. Non ho capito se sono i dialoghi che non si avranno mai o gli incontri che non si avranno mai. Però è vero, è una cosa che succede, quella di star lì a rimuginare. Ecco, adesso quando, appena la vedo dico questa cosa, quando torna gli dico così, lui mi risponderà in quel modo e io lo ribatterò e lo rincalzerò in quest'altro modo. Attesa 800240024. Luisa, sto aspettando una telefonata da Ruanda per conoscere una ragazza che forse verrà a vivere a casa mia per i prossimi mesi. Aspetto questa prova, quella di convivenza con una sconosciuta, e sono combattuta a metà tra i dubbi e l'impazienza di arrivare al giorno in cui ci vedremo in aeroporto. E siccome ho un po' di paura, capisco che sto facendo la cosa giusta. Susanna, sto aspettando ansiosamente l'omino della lavatrice, neanche fosse Raul Bova. Ecco, se state aspettando l'idraulico, ad esempio, se state aspettando vostro figlio che esca da scuola, 349-238-6666 oppure 800240024. E poi oggi sul profilo Facebook ha scritto anche Gregorio, che mi ha scritto così: sto aspettando il ritorno al lavoro di una collega che è andata in ferie prima di Natale, dicendomi che non sapeva quando e se sarebbe tornata. Sto aspettando il ritorno di mio figlio dalla California, domandandomi se desidero che torni più maturo oppure no. Sto aspettando che mia figlia si renda conto che so molte più cose di quelle che lei immagina e che quello che è lei adesso, io lo sono già stato. A proposito di attesa, già qualche tempo fa avevo letto un passaggio di questo libro magnifico che è Frammenti di un discorso amoroso, a proposito dell'attesa, appunto. E oggi però c'è un passaggio che è proprio perfetto per quello di cui parlo. Perché Roland Barthes descrive l'attesa come uno spettacolo in tre atti, con una sua sceneggiatura e una sua scenografia. E lo descrive così. La scena rappresenta l'interno di un caffè. Abbiamo appuntamento e io sto aspettando. Nel prologo, unico attore della commedia, io constato, registro il ritardo dell'altro. Questo ritardo è ancora soltanto un'entità matematica, è un numero computabile. Io guardo il mio orologio diverse volte. Ecco, il prologo finisce quando con un colpo di testa decido di farmi venire il sangue cattivo, di dare libero sfogo all'angoscia dell'attesa. Ecco, qui ha inizio il primo atto. Esso passa in congetture. E se per caso non ci fossimo capiti circa l'ora e il posto? Io cerco di ricordarmi il momento in cui è stato fissato l'appuntamento, le indicazioni che ci siamo scambiati. Che cosa fare? Andare in un altro caffè? Telefonare? Ma se l'altro arriva mentre io non ci sono? Non vedendomi c'è il rischio che se ne vada. Il secondo atto invece è quello dell'ira. Rimprovero violentemente l'assente. Però lui avrebbe ben potuto, Oppure lui sa benissimo che, se lui o lei fossero qui, potrei rimproverarli di non essere qui. Nel terzo atto invece raggiungo l'angoscia pura, quella dell'abbandono. In un attimo io sono passato dall'assenza alla morte. L'altro è come morto. E qui esplode il lutto. Io sono interiormente livido. Ecco, questa è la recita. Essa può essere abbreviata dall'arrivo dell'altro. Se arriva nel primo atto l'accoglienza è calma. Se arriva nel secondo c'è una scenata. Se arriva nel terzo c'è la riconoscenza, l'atto di grazia. Io respiro nuovamente a pieni polmoni come Peleas, allorché uscendo dal sotterraneo ritrova la vita e il profumo delle rose. Oggi si parla di attesa, ne parla anche Roland Barthes in questo passaggio che era Frammenti di un discorso amoroso. Visto che ogni tanto leggo delle cose e molti di voi mi chiedono cosa hai letto, forse perché non lo ricordo o lo dico troppo male, ma visto che si parla di attesa e visto che si parla di me, ecco la mia. Ho trascorso questi giorni a cavallo tra Natale e Capodanno, tra la radio, gli amici, i desideri da realizzare e i vetri da ripagare. Poi l'altro ieri sono tornato a casa, qui a Milano. Quando sono entrato la sensazione era che facesse più caldo fuori che dentro, come se le mura spesse di quella vecchia casa sul Naviglio avessero approfittato del riscaldamento spento per conservare il gelo che era penetrato dagli infissi, da sotto la porta, dal pavimento, dai muri. In casa c'erano 12 gradi. Io ho acceso il riscaldamento e poi sono andato a bere un cappuccino nel bar sotto casa, anche se erano le 6 del pomeriggio, sperando al ritorno di trovare un po' di calore. Ho fatto un giro. Sono andato a prelevare i soldi a un bancomat, ho fatto una piccola spesa, ho comprato un libro nuovo per iniziare l'anno con una buona lettura. Ho comprato un giornale, ho controllato i film che c'erano a Milano e si erano guardabili. Ma mi rendevo conto che si trattava tutto di un diversivo. Tutte queste cose erano solo un modo per non accorgermi che stavo aspettando. Ancora una volta, stavo aspettando. Mi sembra che ultimamente la mia vita sia fatta solo di grandi attese. Attese di risposte, di messaggi, di rivelazioni, di epifanie, di correzioni. Ma soprattutto attesa di una persona. Avevo già controllato il mio cellulare un numero sufficiente di volte per capire che l'attesa era cominciata con quel messaggio là, il messaggio in cui Nathalie mi aveva mandato tempo prima, che diceva che mi confermava il volo, quello di ritorno dalla Thailandia. Diceva che sarebbe atterrato a Malpensa alle 13.50 del 4 di gennaio. Insomma, quel messaggio mi era entrato dentro come la lanciata di un cronometro che conta i secondi. Sono rientrato in casa, ho sistemato la spesa, ho appoggiato il giornale sul tavolo sapendo che non sarei andato a vedere nessun film, che non sarei uscito di casa e che da lì, alle 13.50 di domani, qualsiasi cosa avessi fatto, in fondo, l'avrei fatta solo con lo scopo di misurare il tempo che mancava al suo ritorno. Intanto la temperatura si era alzata di qualche grado, ma io continuavo a tenere addosso il giaccone. E mentre mangiavo le trofie al pesto dell'Esselunga, ho realizzato qual è la differenza che passa tra aspettare qualcosa e aspettare qualcuno. Aspettare una persona. La differenza è che quando aspetti qualcosa, la reazione che scaturisce da quell'incontro dipende da te, solo da te. Cioè la faccia che fai quando trovi una lettera nella cassetta delle lettere, o il timore che provi nell'aprire un referto medico, tutto sta solo nella tua testa. Tutto è frutto solo della tua immaginazione e della tua capacità di umanizzare qualcosa. Quando aspetti una persona, invece, l'attesa è completamente diversa. Perché non sai mai che cosa c'è nella testa di quella persona che magari conosci o che magari non conosci, che magari pensi di conoscere, e questa attesa ti sta facendo capire che forse non è così vero che sai chi è. Non è così vero che riesci a prevedere quello che pensa e che alla fine è stata via qualche giorno o qualche mese e chi lo sa quello che adesso penserà. Quando aspetti una persona che torna da te, metti in dubbio tutte le tue certezze, tutte le tue convinzioni, tutte le tue visioni del mondo. E ieri sera, mentre aspettavo Nathalie, ma anche questa mattina, mentre ero all'aeroporto, non sapevo cosa pensare. Non sapevo cosa prevedere. Se immaginarmela come era prima che partisse, o attraverso i messaggi che mi aveva inviato, o ancora ripensando al modo in cui ci siamo salutati, o incontrati la prima volta. Chi è lei di tutte quelle cose che è stata prima di partire? E quindi chi di lei tornerà? L'attesa di una persona regala sempre un senso di vertigine, perché non riusciamo a capire quale parte di noi andrà in aeroporto o in stazione a prendere quale parte di quella persona che sta tornando. Sì, l'attesa di qualcuno è un po' come una di quelle giornate che le previsioni del tempo segnano con il sole, la nuvoletta e la pioggia. Sai che per un po' pioverà, che per un po' ci sarà il sole o anche un po' di pioggia, ma non sai mai in quale ordine aspettarlo. Ecco, mentre andavo in aeroporto stamattina il cielo era coperto. Poi quando stavo parcheggiando ha iniziato a piovere. Io ho aspettato. E poi è arrivata Nathalie. Non starò qui a descrivervi il colore ambrato della sua pelle o il suo sorriso senza domani. Vi dirò solo che ho capito il senso di quell'attesa che era cominciata il giorno prima. In auto lei ha tirato fuori un quaderno di appunti e mi ha detto che aveva mantenuto la promessa, che aveva scritto un diario. Le ho chiesto se potevo leggerlo in radio. Lei ha ripreso in mano, ha tolto qualche parolaccia, qualche passaggio troppo sdolcinato. Adesso sono pronto a leggerlo e a leggervelo, perché quell'attesa si è conclusa ieri, quando siamo entrati in casa e c'erano 22 gradi. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. Dicembre 2010. La Thailandia è la terra dove vive il popolo Thai. Sono splendide persone, ridono con tutta la faccia e comunicano con gli occidentali con dei termini semplicissimi, big e small, per dare la misura delle cose. Boss, big boss e the king. Questa è la loro gerarchia. 28 dicembre 2010. Con le mie amiche rido molto ascoltando la cadenza delle frasi. Ci siamo fatte fare un massaggio meraviglioso, in spiaggia. Le signore parlavano tra loro mentre si accanivano contro la mia povera schiena. La città di Krabi, qui nel sud della Thailandia, ci accoglie con un gran movimento di auto, bici e motorini attrezzati a tuk-tuk. Poi è l'odore delle mangrovie a riempire i polmoni. 29 dicembre 2010. Le maree scandiscono la giornata ed è molto piacevole, è molto rassicurante dipendere dalla luna. Ogni giorno l'acqua arriva e se ne va con circa mezz'ora di differenza e le persone pazienti, oppure costrette, si adeguano ai ritmi della natura. Quando la marea si ritira, sulla spiaggia rimangono mille conchiglie e animaletti che lasciano disegni che sembrano ricami. Tutto qui è primordiale. Di fronte alla casa in cui stiamo ci sono isole che assomigliano all'isola che non c'è. 30 dicembre 2010. Sono a metà della vacanza. Oggi ho camminato con Azzurra, avanti e indietro sulla spiaggia per un paio d'ore, e stasera posso sfondarmi di cibo. I noodle sono meravigliosi. La cucina thai non ha niente da invidiare alla nostra, è molto varia. Non mi stufa mai. 31 dicembre 2010. Oggi sono stato al mercato, ho fatto la spesa per l'ultimo dell'anno. Ostriche, gamberi, calamari e pesce. Poi mango, ananas e una specie di pompelmo. Più dolce però, più succoso. La zona sud della Thailandia, forse anche a causa della vicinanza con la Malesia di religione islamica, e per non so quale regola gli alcolici li vendono solo dalle 11 alle 17. Abbiamo mancato le 11 per poco. Proveremo prima delle 17. C'è un clima così caldo e così intimo che Milano mi sembra lontana e odiosa. Oggi ho visto gli elefanti e delle scimmie, che chiamano scimmie operaie. Si arrampicano sulle palme, sono tenute ad un guinzaglio e raccolgono i cocchi troppo maturi. Ho iniziato Le correzioni di Jonathan Franzen. È bellissimo. 1 gennaio 2011. È arrivato il 2011. Ieri sera è stata una bellissima serata. Dalla spiaggia di Aonang abbiamo liberato nel cielo lanterne di carta velina, insieme ad altre centinaia di persone. Lo stoppino di fuoco le riempie di aria, aria calda, e le fa volare come piccole mongolfiere. Il cielo era punteggiato di lucine e lo spettacolo era indimenticabile. Mi sono sentita felice come una bambina. La Singa Beer è stata la nostra compagna di serata, mentre giocavamo a biliardo nei locali di Aonang. In Thailandia il biliardo è praticamente lo sport nazionale. Non racconterò l'ambiente interno. L'umanità che popola questi locali è tutta al più composta da uomini di 65 anni, di tutte le nazionalità, e signorine thailandesi molto in tiro. È stata una bella notte di Capodanno. Tornando a casa al buio, in macchina, pensavo che il 2011 è l'anno in cui voglio smettere di fumare e voglio un lavoro, di quelli con la scrivania. E poi voglio iniziare ad usare il casco in bicicletta. 2 gennaio 2011. Sono sull'aereo che da Krabi porta a Bangkok. Da lì c'è un volo che fa scalo a Dubai. E domani mattina sono di nuovo a Milano. Sarà un viaggio lungo. E ripensando alla vacanza, mi viene da fare una lista. La lista delle 10 cose che porterò con me della Thailandia. Il tuffo in piscina tutte le mattine prima della colazione. Un'eccitazione che non so perché, ma abbiamo usato tutta la vacanza. Uè, nani, scendi dalla pianta, eh? Dinner all ready, puntuale, tutte le sere, alle 8:30. La camminata, regale al rallenti, dell'elefante. I branchi di stelle marine sul fondo del mare. La laguna piena di long tail, le barche con la coda. Le lunghe contrattazioni per dei vestitini colorati da 5 euro. Le foto con la macchina subacquea. Il giro in kayak, nella foresta di mangrovie. E poi, sempre e comunque, il mare. Viaggiamo sulla ferrovia. Ehi, sai una cosa? Magari vediamo dei bisonti. Sei fortunata, sorellina. Io mi sento orrenda. Io ti amerò sempre, anche se diventassi enorme, anche se ci volessero mesi per perdere peso. Ne avevo già parlato qualche tempo fa, quando era uscito questo film che si chiama American Life, visto che però di fatto racconta di un viaggio, ma di un'attesa, in quel caso l'attesa di un figlio, visto che dei due protagonisti, che sono una coppia, lei è incinta. Però mi va di rifarlo oggi, non solo per questo, ma perché credo che sia meglio vedere bei film che brutti film, e questo appartiene alla prima categoria. E poi anche perché prima ne parlavo alla mensa del Sole 24 Ore insieme a Tiziano, che l'ha visto da poco, ed è vero che mi diceva lui, forse questo film racconta meglio di chiunque altro, anche se è un film americano, racconta meglio di qualunque altro film recente, una generazione che più o meno poi è la nostra, quella delle persone che vanno dai 30 ai 35 anni, non so in quale modo, ma in qualche modo credo che sia così. Quindi se avete 30-35 anni, ma non solo, se ne avete di più, se ne avete di meno, ma vi interessa in qualche modo quella generazione lì, andate a vedere questo film che si chiama American Life, anche se in realtà il titolo originale si chiama Away We Go, che sta per Noi ce ne andiamo. andiamo. Però qualcuno, un ascoltatore tempo fa, mi ha suggerito che probabilmente il motivo per cui qualche demente traduttore italiano ha deciso di tradurre il titolo di questo film con American Life è che probabilmente, visto che il regista è Sam Mendes, qualcuno ha pensato che dandogli un nome simile ad American Beauty, che era il primo film di questo, non era il primo, però era uno dei primi film di questo regista e che è andato così bene, si è detto, sai, magari se ricorda American Beauty, magari ci facciamo più soldi. Non c'entra niente con American Beauty, ma è un bellissimo film. 800240024 349-238-6666. Quando ero piccolo, mio papà faceva il custode ad una villa e noi abitavamo nella casa del custode. Quando di notte scattava l'allarme nella villa, lui si doveva alzare per controllare. Tutte le volte mi svegliavo anch'io ed aspettavo che tornasse sano e salvo. Quando tornava, mi addormentavo felice. Ciao, Marco. Ecco, è proprio di attese come queste, di attese di persone che ci stanno vicino, di persone che possono essere il fidanzato che ritorna da un viaggio, lui che ritorna da voi, o lei che ritorna da voi, o se state aspettando un figlio adottivo che arriva in aeroporto, ma anche l'elettricista che viene a aggiustarvi la luce in casa, se aspettate un padre che ritorna dalla galera o un marito che ritorna da una guerra, se state aspettando anche solo un figlio che sta tornando da sciare, oggi è il momento di chiamare. 800240024 349-238-6666. Prima però di dare la linea alla borsa vorrei leggere un messaggio che non c'entra con l'attesa, ma forse anche sì. È un messaggio di Viviana che mi scrive: ciao Matteo, ti sento sempre, però non posso chiamare. Sono affetta da sclerosi multipla. Attraverso te riesco a vivere il mondo da un letto. Grazie, la mia attesa è un brutto destino. Io spero che non sia così brutto, Viviana. Grazie per il messaggio. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in spiaggia, anche se non è esattamente un periodo della spiaggia, e non lo è nemmeno dalla foto. Le protagoniste di questa fotografia sono due cabine in legno, bianche, con la porta di quelle che non ci puoi guardare dentro, ma c'ha le fessure per guardare fuori. Non so se mi sono spiegato. La spiaggia si vede appena, anzi, si vede il mare, si vede la neve che è caduta sulla spiaggia e dietro si vede il mare, molto azzurro. Sullo sfondo invece c'è un cielo che credo sia al tramonto, anche se spesso col tramonto e l'alba faccia confusione, però ci sono delle nuvole grigie che lasciano filtrare una luce rosa. È una bella spiaggia italiana e credo sia sull'Adriatico. Lisa Siboni, 34 anni, io e mio marito Gualtiero. Approfittando delle condizioni avverse del tempo, eccoci qui nella spiaggia di Misano Adriatico invece di lavorare. Noi siamo qui. Grandissima. Approfittando delle condizioni avverse del tempo, Lisa, sei magnifica. Vorrei capire che lavoro fanno lei e Gualtiero. Probabilmente hanno i bagni Lisa e Gualtiero, immagino, visto che le condizioni avverse del tempo non gli danno modo di lavorare. Siamo qui ad aspettare. Misano Adriatico, però, giusto? Quindi era Adriatico. 80024 0024 349-238-6666. Attese e speranze di attesa. Adesso vorrei aspettare un figlio. Speriamo che arrivi presto. Però non si firma. Sto aspettando che nasca il mio primo nipote, ad aprile diventerò zio. E poi ancora, ciao Matteo, io sto aspettando la persona più importante della mia vita e non la conosco ancora. Data prevista per l'incontro faccia a faccia il 22 aprile, poi per sempre, chissà chi è. Sono in dolce attesa, ma anche in grande in dolce curiosità. Tutti i pomeriggi aspetto con ansia che il treno, perennemente in ritardo, mi porti a casa delle mie bambine. Ecco, ora sono sul treno. C'è un sacco di gente che ascolta sul treno tramite la radiolina, anche se mi domando come faccia a tenere la linea su un treno di una radiolina. Avevo 5 anni, aspettai mamma all'asilo senza pranzare. Non arrivò, l'aspetta ancora, a 46 anni. Claudio. Ogni giorno alle 4:30, dopo una giornata che inizia, mentre loro dormono ancora, li rivedo, i miei figli. Ogni giorno aspetto questo momento ed è bellissimo rivederli. Però all'800240024 0024 ci hanno chiamato e io andrei immediatamente a Imperia, da Marina. Pronto Marina? Ciao. Ciao, come stai? Bene. Come va Imperia? Brutto tempo. Brutto tempo. Tu dove sei? In macchina? Sì, sono in macchina. E dove stai andando, Marina? Sto tornando a casa, però mi sono fermata un attimo per poter parlare. Bravissima. Ma non hai la radio accesa, Marina, no? No, non è. Ok. Senti, raccontami... Aspetta. Sembra una telefonata con mia mamma. Aspetta un attimo che devo spegnere la televisione. Marina, raccontami la tua attesa. Beh, la mia attesa è un'attesa che dura da un sacco di anni, ma è un'attesa ormai così, no? Che mi tiene compagnia, un'attesa che non crea sofferenza, un'attesa positiva tutto sommato, e non so se poi finirà mai. perché ha avuto inizio parecchi anni fa, quando io ero innamorata, avevo 20 anni, di un ragazzo. Sì. E io aspettavo sempre di incontrarlo, aspettavo così di vederlo passare, di parlargli. Un giorno succede il miracolo, ci fermiamo. Cioè vi fermate nel senso che tu lo fermi? No, no, così, distinto, ci incrociamo, ciao, sì, come stai? E nel momento in cui io capisco che lui dimostra così un velato interesse per me, io cosa faccio? Gli spiattello, guarda, sono innamorata di te, insomma, la cosa peggiore. Ma pronti via proprio. Che potevo fare. Quanti anni avevi, hai detto, scusa Maria? 20. 20, ok, quindi va bene, la mia esperienza, diciamo, l'hai pagata tutta. L'età giustifica il comportamento. Ok, no? però dopo una lunga attesa uno dice, insomma, me la gioco. Me la gioco ed è andata male, perché comunque lui si è defilato, si è spaventato. E poi non ci siamo più visti, se non qualche incrocio sporadico, così un saluto da lontano, e è rimasta dentro di me questa Senti, forma, ma Marina, di speranza. Ma visto che lo stai ancora aspettando, tu ma no, ma perché non c'entra niente questo, perché io ho la mia vita, sono sposata, però è un, come si dice, un'isoletta dentro di me che è rimasta. Ed è appunto un'attesa che, ripeto, mi tiene compagnia. Ok, insomma, è un piccolo spazio di attesa. Marina, ti ringrazio molto. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao. Viviamo in un piccolissimo e sperduto paese della Calabria. Eravamo poveri, ma tutti gli anni mio zio, emigrato a Piacenza, ritornava portandoci dei regali. Era una festa unica, era il nostro Babbo Natale. Ecco, quella sì che era un'attesa. Michele da Bergamo. Andiamo da Luisa, invece, della provincia di Vicenza. Pronto, Luisa? Ciao, Matteo. Ciao, stai bene? Sì, sto bene. Senti, tu mi hai mandato il messaggio prima in cui mi dicevi che stai aspettando per il 22 di aprile, giusto? Per il 22 di aprile, sì, il nostro primo bambino. Quindi di quanti mesi sei incinta adesso? Mesi 5 e mezzo, settimane 24 più 4 giorni. Sapresti dirmi anche l'ora praticamente. Senti, è stata un'attesa desiderata o è venuta per caso? No, no, è stato desiderato, però deve avere sentito che lo desideravamo tanto perché è arrivato subito. Ah, ok, quindi non c'è stata un'attesa per dell'attesa. Siamo stati fortunatissimi. Senti, come adesso c'è l'attesa sua. Senti, qual è la cosa, in un'attesa come questa, che è un'attesa che stanno vivendo molte persone, come è arrivato dal messaggio, sia madri che padri, più madri, oddio, anche i padri, però insomma le madri, diciamo, è un'attesa un pochettino più intima. Qual è la curiosità più grande che hai rispetto all'incontro con questa persona? La curiosità è quella di che tipo di rapporto avrò con lui. Al di là di quello, faccia. Guarda, Luisa, esatto, invece pensavo proprio a quello, la faccia che avrà, il modo in cui. No, il rapporto con lui. Speriamo, guarda, Luisa, speriamo che sia simpatico. Come si chiamerà? Sicuramente lo sarà. Come si chiamerà? Non abbiamo ancora deciso il nome perché non sappiamo se sarà maschio o femmina. Ok. Io e Amos, mio marito, abbiamo deciso di. Va bene, lo aspettiamo. Oppure aspettiamo. Io ho degli amici a cui nasce il figlio tra pochi giorni e tutti gli chiedono come si chiamerà e loro dicono: è una figlia e loro lo sanno. Stiamo aspettando di vederlo in faccia per decidere il nome. Abbiamo pensato anche noi, comunque, anche una rosa di nomi maschili e di nomi femminili. E poi quando lo vedremo, decideremo. Luisa, in bocca al lupo e buona attesa. Grazie. Ciao, grazie. Matteo, ciao. Ciao. Quando ero piccolo mi ricordo che aspettavo sempre il ritorno di mio padre dal lavoro. Non c'erano ancora i cellulari e bastava un piccolo intoppo e lui ritardava ed io ero preoccupato finché non sentivo il rumore della sua macchina che arrivava, Roberto. Poi è arrivato un altro messaggio di Mauro da Torino che dice: eccolo qui, perché parlavo del film, eccolo qui l'alternativo del film bello anche se americano che vede solo film di qualche regista indipendente patetico. Ah no, patetico sono io, non il regista indipendente. Guarda Mauro, Sam Mendes non è un regista indipendente perché fa dei filmoni, guardo qualsiasi genere di film e ogni tanto mi capita di riparlare di quello che mi piace. Se tu hai un film da consigliarmi, 349-238-6666. Poi andiamo a Napoli da Vittorio. Pronto Vittorio? Pronti. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Chi stai aspettando? Senti, io parlo al nome della mia modesta ma grande famiglia. Siamo tutti in attesa del nostro figlio che è andato a fare una gita con i Boy Scout. Quanti anni ha il piccolo? C'ha 9 anni. Siccome che la differenza degli altri, insomma, che hanno avuto delle attese anche proprio di figli che devono arrivare come nascita, sì. La nostra, insomma, è un'attesa inusuale perché non ci siamo mai staccati l'uno dall'altro. È la prima volta che lui fa una gita da solo? Sì, assolutamente. Senti, ma gli scout, Vittorio... Però a fargli fare questa gira io e la mia moglie, perché è un'esperienza, credo, che formativa, che è veramente importante. Figurati, lo dici a una redazione qua che è piena di scout, a partire da Tiziano Bonini per arrivare fino a Paulino Corleoni, che oggi non c'è. Roberto, non credo sia uno scout, no. Senti, però, Vittorio, a 9 anni chiaramente l'hai invogliato tu ad entrare negli scout, giusto? Sì, perché tu eri uno scout. La parrocchia vicino a casa, che sono molto organizzati. Che gruppo è? Scout Napoli 5? Sai che io adesso mi prendi impreparato. Pensa tua moglie a queste cose di solito. Sì, credo di sì, però comunque sono assolutamente organizzatissimi. No, ma tu qua non dubitavo. Hanno fame da fare. Poi ero ignorante in materia, non sapevo. Tu non hai fatto lo scout? No, purtroppo no. E allora per me la mamma è stata una nuova esperienza. Senti, e Vittorio, torna e siamo in grande attesa. Ma dove si trovava a fare sto campo? Sono partiti da Napoli, sono in Rocca Monfina. Si saranno persi un paio di volte, sai, Vittorio? Sono in un convento sperdutissimo, dice. Perché poi la cosa che ti mette più ansia, sì, è che non puoi comunicare con loro. Certo, perché agli scout mica il cellulare. Però guarda, Vittorio, secondo me l'esperienza sarà formativa per lui, ma formativa anche molto per te e per tua moglie. Sì, ti ringrazio, buona giornata. Ciao, grazie a te. Ciao Vittorio, ciao. L'ultima telefonata di oggi ce la facciamo, vero? Sì, ce la facciamo. Andiamo a Verona da Paolo. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno Paolo, come stai? Emozionato e arrabbiato. No, adesso. Arrabbiato spero non con me. No, decisamente, non ho con te, anzi, con mio fratello. Perché? Perché è andato in ferie, è mio socio artigiano, e io devo solo prendere le telefonate dei clienti arrabbiati, finché non arriva lui, tutto lì. Che lavoro fai? No, lavoriamo in piano di cucina, in marmo. Ok. E quindi in due bisogna essere per forza. Quando torna da sta vacanza? Dovrebbe tornare domani, però non mi hanno ancora detto se arriva effettivamente. È andato in Grecia e non so se rientra. In Grecia a dicembre? No, ma l'hanno 15 gradi adesso. Ah, ok. Paolo, grazie mille, buona attesa anche a te. Grazie a te. Ciao. Ne abbiamo tempo ancora per una, invece, mi dicono di telefonata. Andiamo al volo da Anna a Vicenza. Pronto, Anna? Buonasera, Matteo. Buonasera, Anna. Senti, era solo per dire che penso sia un'esperienza forse unica. Io ho aspettato i miei genitori per 9 mesi perché mi avevano allontanato da casa in quanto eravamo sul fronte di guerra, per mettermi in salvo. Che anni erano, Anna? Io ho 75 anni, era il 42. Il 42, wow. Il 42, quindi avevo 6 anni, però non avevo capito che era un gesto generoso da parte loro. E certo, sembrava un abbandono. Sì, come un abbandono. E quando li ho visti, mi commuovo adesso. Lo immagino, Anna, lo immagino. Lo sento. Senti, tu sei rimasta 9 mesi con chi, quindi? Sì, ero con i nonni. Ah. Ma erano nonni per me sconosciuti, non avevo certo un rapporto con loro. Senti, dimmi, tu ti ricordi quando è stato il momento in cui sono arrivati? Chi hai visto per primo? Cosa ti hanno detto? Io ero stata mandata in montagna all'alpeggio, come le mucche. Perché mi vedevano patita e certo pensavano che l'aria della montagna mi dovesse far bene. Ma il momento in cui sono tornati a prenderti? Ho visto, mi hanno detto guarda chi arriva. Vedevo queste due persone da lontano, anzi erano tre perché c'era un accompagnatore, mia mamma e mio papà. Io so che mi sono buttata fra le braccia e... non lo so per quanto piace. Anna, grazie mille, buona giornata. Un abbraccio. Grazie tanto per la telefonata. Ciao, grazie mille. Grazie. Ciao. C'è invece un piccolo racconto che mi è arrivato da un ascoltatore. È un racconto che io ho intitolato come Attesa senza ritorno. Si parla di attese oggi, si parla di persone che tornano ma che non tornano da noi. È una cosa che io ogni tanto chiedo di fare. Se avete voglia di continuare a raccontarmi dei piccoli episodi della vostra vita, c'è un indirizzo che è iosonoqui@radio24.it. Questa invece è l'attesa senza ritorno. Com'era quel detto? Il primo amore non si scorda mai, una roba del genere. E qui la penso diversamente. Il primo amore è l'unico amore della vita di una persona. Le storie successive servono soltanto ad essere gettate in quella voragine che ti rimane quando lei, la prima, non vuole saperne più di te. Passa il tempo e poi, un giorno, arriva uno scherzo del destino. Ti svegli di colpo quando il destino ti combina uno dei suoi scherzetti, un po' sadici, proprio quando meno te l'aspetti, O meglio, forse visto le circostanze del periodo natalizio, pensavi che potrebbe succedere, ma è una probabilità su un milione. Eppure, proprio il giorno di Santo Stefano, mentre sei con la tua fidanzata e futura moglie, a fare una passeggiata nel giro invernale e decidi di entrare in libreria per rifocillarti un po' al caldo, lei è lì, davanti allo scaffale, a curiosare tra i libri. La riconosci all'istante. Non è cambiata affatto. Di tanto in tanto le lanci un'occhiata, pensi che potrebbe andarsene, ma non lo fa. Continua a cercare tra i volumi, si avvicina, poi va nell'altro corridoio, tu rimani lì, sfogliando un manuale di disegno. Si avvicina alla tua fidanzata e ti chiedo cosa stai guardando, tu dici niente di che, poi ti giri e incontri il fotografo che hai scelto per le foto del tuo matrimonio. Inizia a chiacchierare al fianco della tua fidanzata, pochi secondi, e poi arriva anche a lei, con una coppia di amici, si ferma e parlano proprio vicino a te, dandoti le spalle. Il tuo orecchio fa finta di ascoltare la conversazione degli amici, ma in realtà ascolta quello degli altri, quella di lei. Ti concentri sempre di più per ottenere informazioni. Sei fidanzata, sposata, qualsiasi cosa pur di soddisfare la tua curiosità, per sapere cosa è diventata senza di te. E di tanto in tanto fai una risata ai tuoi interlocutori, talvolta giri la testa per notare come è vestita, la gonna, gli stivali, il piumino bianco. E poi se ne va. E tu rimani lì. Devi rimanere. La tua chiacchierata continua ancora. Poi termina e finalmente te ne vai. Rimani ancora qualche minuto, sei lì con la tua fidanzata, stai per uscire dalla libreria. Lanci qualche occhiata verso l'uscita, lei è andata, di nuovo, con il cuore che le hai regalato. E tu resti lì, davanti al vuoto, al silenzio, sei disilluso e sei vittima di uno scherzo del destino. Grazie per questo racconto, per chi me l'ha mandato. Grazie a Roberto Scaltritti, a Viola Bottoni, che da oggi, anzi da ieri, è con noi ufficialmente fino alla fine. Grazie a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?